L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A Cruciani, sono Mauro e qui nel New Jersey ho infettato di zanzarite i miei due amici Gaetano e Vincenzo, che adesso ti preferiscono ad Howard Stern. Siamo al top, anzi siamo al trop. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. A Cruciani, Mein Kampf non è in omaggio col giornale, devi comprare un altro libro che costa 11,90 euro, ma ninculata! Beh, devo dire la verità, caro Parenzo, mi rammarico solamente di una cosa. Mi rammarico di non avere pensato io a fare questa iniziativa, questa grandissima iniziativa. Ho un grande rammarico, fatto. Il grande rammarico è di non avere distribuito il Mein Kampf, libro che odio, personaggio ripugnante, di non averlo però distribuito magari ai primi 20 ascoltatori della Zanzara. Meno male che non l'hai fatto. Purtroppo non mi è venuta questa idea. L'unico rammarico è questo. Meno male. Perché cosa avresti fatto? Ti saresti ritirato dalla Zanzara? Assolutamente. Ti saresti astenuto? Ma assolutamente. Che cosa avresti fatto? Trovato qualche forma di protesta? Protesta. Potresti distribuire. Si potrebbe distribuire i libri di Primo Levi, ad esempio. Se questo è un uomo, la tregua, i sommersi e i salvati. Si potrebbe distribuire il diario di Anna Frank. No, si potrebbe distribuire le lettere dei condannati a morte della resistenza. Ci sono tanti libri che si possono distribuire. Ma per tutto capire si può distribuire. Che cosa è stata la Shoah e non quel libro, allora, che ha avuto cosa ma no, cosa, e non quel cosa. Libro che ha c'è stata Germania... c'è stata una polemica che ha coinvolto la Boschi nel weekend, che ha detto che è preoccupata che vinca la destra a Milano che si rifà al Mein Kampf. Questa Boschi ha detto due cazzate nel weekend, il ministro. Ma questo Boschi non c'entra niente con la vicenda, però. No, c'entra nulla, però ha detto io una cazzata. Su questo non sono d'accordo, ovviamente. Ecco, non c'entra meno niente. Meno male. Ma non c'entra assolutamente niente. Cioè, io la Boschi critico l'iniziativa di Boschi. Boschi ha messo insieme il Mein Kampf distribuito. No, Parisi non c'entra nulla. Tant'è che sei incazzato pure Parisi. Sì, cioè, sei incazzato Parisi. Sì, sì. Senti la Boschi. Perché sono molto preoccupata, per esempio, che a Milano vinca una coalizione in cui ci sono degli esponenti che sostengono che vada bene regalare il Mein Kampf. Perché ricordiamoci che il giornale ieri ha allegato gratuitamente il Mein Kampf, sostenendo che era un'iniziativa ovviamente culturale. Ora, quel giornale sostiene Parisi e lo sappiamo, ma al di là di Parisi in sé, noi sappiamo che se vince Parisi entreranno dei consiglieri comunali che hanno quelle idee, cioè che si rapportano con una destra lepenista. Pensiamo a Salvini. Cioè, in pratica ha detto che Salvini si rifà al Mein Kampf, cioè, indirettamente ha detto questo. Ha detto una gran cazzata. L'altra cazzata enorme che ha detto la Boschi nel weekend, credo che fosse sabato, se non sbaglio, addirittura ieri, c'è stata una polemica su Torino e sull'Appendino, che dice: se vince l'Appendino, Torino perde 250 milioni. Una cazzata spaventosa. Cioè, ha voluto spaventare i torinesi, no? Spaventare vabbè, i torinesi. Quello fa parte della propaganda politica, non mi stupisce. A parte che fa quella, fa il ministro, non è Fassino. Lo dicesse Fassino, fa vabbè. Anche l'esponente del PD. Vabbè, ho capito, ma fa il ministro, non puoi raccontare una minchiata. Dire, no, dai, dai, ma è una minchiata quella. Si è sempre dai. Fatto quello, non c'entra niente. Vabbè, non, se a te va bene pure sta roba qua, no, va bene. Ma che... figurati, ma non mi stupisce. Sentiamo. Io mi preoccuperei di più a Torino del fatto che se vince l'Appendino, Torino perde 250 milioni stanziati dal governo per creare il Parco della Salute. Di questo mi preoccuperei. Sai che poi io non voglio mai mettere gli audio della Boschi perché trovo che abbia una voce insopportabile. Vabbè, cioè ha una no, ma proprio una cosa antiradiofonica, una cosa proprio ho capito però una cosa che... sì, fastidiosa, sì. Una voce fastidiosa con questa una voce belante, una voce ma anche Mario da Mantova, no, Mauro da Mantova, ma una non voce c'è paragone, fastidiosa. Vuoi mettere la voce pure di Mauro da Mantova alla voce della Boschi? Ma è più fastidiosa quella la voce di Mauro da Mantova, una voce radiofonica, una voce incalzante, una voce eccetera. Di un pazzo che vabbè, dovrebbe essere rinchiuso in una clinica a vita. L'altra cosa che divento matto, ma divento pazzo, sono gli esponenti della comunità gay, gli esponenti della comunità gay italiana, che parlano, dicono tutti dovremmo sentirci gay. Qui c'è un matto islamico, che a Orlando uccide 50 gay, probabilmente per motivi religiosi, probabilmente per altri motivi che non sappiamo, forse perché è semplicemente matto. Col padre, questa è la cosa grave, col padre che dice i gay non possono essere puniti dagli uomini, ma è Dio che li punisce. E poi dice che l'Islam non c'entra. Comunque, i rappresentanti della comunità gay italiana ci vorrebbero far credere che alcuni personaggi italiani, alcuni esponenti italiani, tipo Adinolfi, eccetera, eccetera, con le loro parole siano stati mandanti del clima omofobo. Non c'è alcun clima omofobo. Non beh, si no, ricordano stragi di gay negli ultimi 20-30 anni. Ma meno male. Non c'è, certo che meno male. Non c'è alcun clima omofobo. Beh, ci sono alcuni non ragazzi che nelle scuole si sono uccisi, non come sai, c'è perché alcun clima per omofobo. La vergogna di essere omosessuali. Dici sempre la stessa cosa da anni. Ne vuoi di una nuova? Dinne una nuova. Non posso dire una nuova perché se non ci sono di fatto, spedizioni per uccidere gruppi di gay. Altro, per, però ma c'è non c'è un clima che fa sì che alcuni ragazzi si sentano come dire violati nella loro sensibilità di omosessuali vabbè. E infatti si suicidano. Dici sempre la stessa cosa, dai. Ma quanti suicidi ci sono all'anno per queste cose? Ma troppi. Ce ne sarà uno. Ne basterebbe uno per dire dai, che sono già troppi. Rondolino, sabato era il Gay Pride, poteva capitare anche a me. Rondolino pure detto ci metti con ste cazzate, dai, mamma mia, però una persona intelligente non puoi dire una cosa del genere. Ci sono migliaia di Gay Pride ogni anno, non succede niente. Mi ha praticamente colpito questa vicenda perché sabato sono andato con mia moglie al Gay Pride, che è stata qui a Roma, una festa molto bella, molto... E adesso non dico che poteva capitare anche a me, però anche sì. No, anche sì, anche no, non succede mai niente, non siamo negli anni... Vabbè, appunto, questo è un pazzo isolato che ancora bisogna capire se è l'ISIS, se non è l'ISIS, se è da solo, se c'entra o no l'Islam, se c'è solamente l'odio nei confronti dei gay, chissà, magari lo scopriremo tra 10 anni, tra 15 anni. Vogliamo parlare del professore, eh? Vogliamo parlare del professore? No. Meglio sarebbe stendere un velo pietoso. Amico mio, Carlo Taormina, l'attentato a Orlando perché due gay si baciavano. Sta di fatto che se si fossero baciati due etero non sarebbe successo niente. Beh, qui siamo, questo è ieri praticamente alle 19.59, cioè proprio con la strage un po', con la strage calda, con i corpi caldi. Il professor Taormina. Cioè lui dice che se si fossero baciati perché il padre ha detto che lui ha visto due gay che si baciavano, il figlio, no, eccetera. Certo. Lui ha detto se si fossero baciati due etero lui non avrebbe fatto nulla, capito qual è il ragionamento del professore? Certo. Una follia, dai, su. No, ma follia, ma è... Allora, mentre Berlusconi dice che gli piace tutto questo clima intorno a lui, cioè questo clima, no, in cui la gente lo chiama, anche gli avversari di politici, affetto, di è, affetto, bello clima che di ci, è bello che ci si voglia bene, un po' alla Parenzo, diciamo, no? Alla volemo sempre. No, è normale, da una persona che sta per subire un intervento importante, senti, e sentirsi degli amici vicino, dell'affetto, del calore, senti può un prete, far bene. Senti un prete, Don dei Capitani, sì. Don cosa dei Capitani, amico mio, quando, solo Dio lo sa, Silvio Berlusconi lascerà questa terra, solo le parole ipocrite di politici e di giornalisti mercenari suoneranno campania morto, ma quel giorno il fiore sorriderà alla vita, gli uccelli canteranno, i bambini giocheranno, i giovani faranno l'amore, le pettegole sparleranno, i leghisti pisceranno e cagheranno come al solito. E nell'imminenza dell'operazione al cuore a Silvio Berlusconi, Don De Capitani lo chiama bastardo. Come si può far finta di nulla quando un bastardo si è servito dell'Italia come uno straccio per pulirsi il proprio culo? Lo ripeto ai duri d'orecchi, non giudico l'anima di Silvio Berlusconi, anche perché non l'ho mai vista, ma condanno senza pietà un folle che con i soldi ha creduto di far valere il proprio pene, soggiogando ragazzine vogliose di denaro, e di far comperare il consenso di italiani analfabeti rozzi. Amici miei, Don De Capitani. Don De Capitani. Parenzo, che reazione hai a Don De Capitani? Meglio sarebbe che questo facesse il prete, ma il prete vero, il prete che cura le anime, il prete che ha parole di pace, che ha parole di amore, di bontà, non un prete che ha parole di odio rispetto a una persona che lui reputa essere un avversario politico. Questo è dal 94 è riuscito a soddisfare una marea di coglioni. Senti, sempre nell'imminenza, proprio alla vigilia dell'operazione al cuore. Persona disumana. Dal 1994 al 2011 ha ridotto il nostro paese a un colabrodo, ad una infamia davanti a tutto il mondo. È riuscito a soddisfare una marea di coglioni per un delirio di grandezza, giocando anche astutamente le carte dell'imbroglio e dell'inganno. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. L'altra follia che dicono su Orlando è che adesso approviamo la legge contro l'omofobia. Ma che cazzo c'entra? Meno male. Ma non c'entra nulla, zero. C'entra e come? Doveva essere approvata già prima, Perché se tu dici froscia di merda devi essere punito? Assolutamente sì, perché quando tu dai un nome alle cose, le cose esistono, come diceva il filosofo. Quando tu dai un nome alle cose, le cose esistono. Fermo, aspetta. Siccome non è tutto uguale, è giusto che chi riceve l'offesa di froscia di merda venga punito con l'aggravante. Bene, fai diffamazione. Come se uno mi dice ebreo di merda, c'è l'aggravante dell'odio razziale. Le cose sono diverse. Infatti, allora, tutto il mondo è così. Carlo Taormina, l'attentato a Orlando perché due gay si baciavano. Sta di fatto che se si fossero baciati due etero non sarebbe successo niente. Io proverei a chiamarlo il professore, che dici? Tu magari sei pure d'accordo con questa stronzata. Ma che sei? Un abominio. Ecco, allora vedi che esiste un abominio. Il problema. Ma cosa c'è, mica lo porto in tribunale per una cosa del genere? E come no? E dove lo porto? Ma fare una spesa al supermercato? Aspetta, e dove lo porto? Fammi chiamare prof. Pronto? Carlo? Yeah. Sono Cruciani, ciao. Ciao, dimmi. Senti Carlo, ma che è successo? Ma come hai fatto a scrivere una cosa del genere? Ci sono mille polemiche. E ognuno fa le polemiche che crede. Ho riferito semplicemente quello che ha detto il padre dell'assassino, punto. No. Non ho altro da dire. Ho capito. Quando tu hai detto, sta di fatto che se si fossero baciati due etero non sarebbe successo niente. Beh, sta di fatto che la situazione si è verificata per quello che dice il padre dell'assassino. Ma che c'entra il bacio? Sa di fatto che se non fossero stati ebrei non ci sarebbe stato Hitler. Sta di fatto che se non ci fossero stati gli ebrei, aspetta Carlo. Se non ci fossero. Ogni volta devi fare così. Cioè, lascia un attimo il tempo. Il tempo alla gente di parlare. Per dire stupidaggini. Richiamate. Tanto non rispondo. Sì. Pronto? Carlo, parlo solo io, non ti preoccupare, parlo solo io. Ma non c'è niente da dire, quindi non no, è... No, no, scusa, allora, no, non c'è niente da dire. Quando c'è una polemica in corso fortissima. Quando tu scrivi che sta di... perché noi siamo abituati. Sta di fatto che se si fossero baciati due etero non sarebbe successo niente. Questo è un po' assurdo, o no? Perché? Che ne so? Io dico che, sì, che due uomini che si sono baciati hanno, secondo il padre dell'assassino, lo hanno determinato a fare la strage. Deduco che se fosse stato il contrario non sarebbe successo. Ma ho capito, ma come fai? Ma come elementare? Cioè tu dici, scusami, tu non lo riporti come se fosse il padre, tu dici l'attentato a Orlando perché due gay si baciavano. Io riferisco l'episodio indicato dal padre è quello, non è che me lo potevo inventare per conto mio. Riferisco quello che ha detto. Ho capito, e fai tuo questo ragionamento. Se no, si fossero... faccio mio. No, io non faccio mio questo ragionamento. Dai su, Carlo, però non ci pigliamo in giro, dai però. Non ci prendiamo in giro davvero. Io prendo atto che il padre ha dichiarato una cosa di questo genere e dico quindi se il padre dice così laddove fosse avvenuto il contrario non sarebbe successo. Ho riferito quello che il padre ha dichiarato. Ma il padre manco lo citi, il padre manco lo citi. Ma certo, ho fatto un tweet, mica hai fatto un tweet da Carlo Taormina, no, cioè no, se si fossero baciati due etero non sarebbe successo. No, questa è una tua interpretazione. Sì. Io chiedo all'avvocato Taormina, un bacio tra due omosessuali può istigare qualcosa? E l'avvocato Taormina non ti risponde. Vabbè, ho capito, ma allora sei un paraculo. Allora sei un paraculo. No, sarà un paraculo l'avvocato. Allora sei un paraculo, amico mio. La verità è questa. Pensi davvero che quello spara e ammazza perché due si baciano? Il padre così ha detto. Tu ci credi? Io prendo atto di quello che ha detto il padre e delle conseguenze che ne sono derivate. Dunque il bacio tra etero non provoca niente, il bacio tra due etero. Beh, io dico che un bacio fra due uomini, secondo il padre dell'assassino, ha provocato questa cosa. I baci tra etero non mi risulta che abbiano mai provocato situazioni di questo genere. Allora io fossi in te, in questo momento chiederei scusa e basta. Cioè, no, guarda, tu non fai lo stronzo, al solito. Hai cagato fuori dal vaso. Per la tua imbecillità. Per la tua alla mia? La mia? La tua il giorno della strage hai detto delle fesserie inaudite! Inaudite! Buffone, 50 morti! 50 buffone, morti ci sono! Buffone, 50 morti! Buffone, chiedi scusa! Buffone, chiedi scusa! Buffone, chiedi scusa! Buffone, chiedi scusa! Buffone, chiedi scusa! Buffone, chiedi scusa! Buffone, chiedi scusa! Buffone, chiedi scusa! Buffone! Piacere, Parenzo! Hai perso pure la voce, che hai fatto? Non ho capito. Ma mi ha mandato ai matti, mi ha mandato ai matti. Neanche scusa sa chiedere. Quelli che non sanno chiedere scusa quando sbagliano. No, più che altro a me mi ha stupito una cosa, cioè prenditi le tue responsabilità, non dire ho scritto la cosa che ha detto il padre. Nah. Avvocato, quando uno dice una cosa, combatte fino in fondo. Non è che se la fa sotto, te la stai facendo sotto. Hai scritto una cosa, non te la fare sotto. Affronta, combatti. Pensi che se due froci si baciano, se due gay si baciano, la cosa possa provocare la rabbia di qualcuno? Dillo fino in fondo, no? Chi è questo? Alessandro Trieste, chi è? Alessandro, che vuoi? Sono il tuo peggiore incubo. Che vuoi? Dimmi. Tu sai da dove deriva il nome Finocchio? Finocchio, non lo so, da dove deriva Finocchio? Dai cattolici. Sì, e che vuol dire? Non mi ricordo più. Nome Finocchio, allora? Allora significa che i cattolici bruciavano i gay. Sì. Con le piante di Finocchio. Allora? Non ho capito. Che cosa vuoi dire con questo, Alessandro? Vuol dire che sei un parassita. Ecco. Chi è un parassita? Chi è un parassita? Non sai un cazzo. Ma di che parli? Sei raccomandato, maledetto, di Confindustria. Sì. E ci ha rotto il cazzo. Sì, a chi? Addio. A chi? A chi? A chi? Cretino, a chi? Cretino, a chi? Ma chi è questo? Chi è questo coglione? Emilio da Como, dai, Emilio. Non c'è. Alessandro dalla provincia di Napoli. C'è o non c'è? No, dobbiamo andare via. Datevene a fanculo. Ciao. Zanzare, Uakbar, a zanzare Uakbar. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Zanzara, puoi dire a quell'omofobo di Taormina che ha scritto su Twitter che l'attentato di Orlando è successo perché due gay si baciavano, che al contrario di quello che dice lui è successo tutto perché esiste gente come lui che non riesce a capire che due persone possono baciarsi a prescindere dal sesso? Mi fai schifo, Taormina. Mi richiamate quello del Finocchio, per favore? Richiamatemi al volo quel coglione del Finocchio, quello di Trieste, là, Alessandro, Alessandro. Allora, intanto, Parenzo, i due candidati a Roma, Raggi e Giachetti, continuano a parlare di Olimpiadi, come se fosse l'argomento più importante a Roma in questo momento. Beh, sono soldi, vecchio mio, sono sì, tanti soldi. Sì, però, ragazzi, sono tanti soldi. Non è soldini, che i romani adesso soldini, si stanno preoccupando tanti. Delle Olimpiadi, adesso, dai, su. Ci sono altri cazzi, come si dice, no? Allora, la Raggi è passata dal no al forse e adesso al no oggi. Il no oggi. No non oggi. Esiste il no oggi. Se sì, devi decidere no. Oggi per domani, non esiste. Il mio è un no oggi, è un no, no oggi. Un oggi però... è un sì o un no? Cioè non è che c'è un no oggi o un no cioè domani, che... io con tutto il rispetto. Mentre Giachetti ne dice pure una delle sue, perché gli anziani chiedono le Olimpiadi, no? Gli anziani non frega una mazza. Cioè, se vedono le Olimpiadi si possono anche vedere in televisione, non cambia nulla. Gli anziani se ne sbattono delle Olimpiadi, caro Roberto. Guardi, sono stato ieri al centro anziani di Villa Lazzaroni e c'erano dei c'erano sì, ma perché lì si ricordano, ma perché lì si ricordano perfettamente qual è stato lo straordinario valore probabilmente delle Olimpiadi del 60. Oh, cosa è successo a Trieste, caro Parenzo? Una cosa incredibile. Comizio in piazza, c'era anche Salvini, c'era anche il candidato del centrodestra di piazza, che è favorito, avendo preso un sacco di voti al primo turno, contro un altro che si chiama Cosolini. Cosolini. C'era anche Sgarbone, tu non sai niente sì, di questa so cosa. Sì, tutto, perché ieri Sgarbone era ospite da me, quindi beh, mi ha raccontato amico tutto. Amico mio, ha fatto l'inferno. Aspetta un attimo, c'è quello di Trieste forse, appunto, Alessandro. Hello? Sì, Alessandro, che cazzo volevi prima, scusa? Alessandro? Sì, dimmi, dimmi. Sì, ma che cosa volevi prima? Non ho capito bene. Dai, forza, parla. No, non capisci che... Cosa volevi prima? Parla chiaro, su, non ti nascondere dietro, non ti nascondere. Volevo offenderti perché sì, non, offenderti, non chiamare e poi abbassare il telefono, cretino, dai, no, dimmi. No, l'hai chiuso tu. Dimmi, che io ho chiuso, ma smettila. Cosa mi volevi dire? No, dai, forza. Non volevo solo dirti, no. Sì, tu chi sei innanzitutto? No, chi giorno, sei? Avete lasciato parlare quel pagliaccio di merda, va bene? Chi è? Che parlava male tipo un anno. Noi okay? Lasciamo parlare tutti, anche te sì, qua dentro. No, sì. Lasciamo parlare tutti, anche te. Sì, però... quel pagliaccio che parlava male di Buonanno, sì, che sì, è una sì. Bravissima persona, bravissima. Ma guarda, non c'entra che... nulla, qui parlano tutti, capito? Chiaro? Chiaro? Parlano tutti, compreso te. Compreso me. Compreso grazie. Te. Dunque, grazie. Che cosa, cosa volevi dire, a parte che abbiamo fatto parlare male di Buonanno da parte di un ascoltatore? Ci sono diversi ascoltatori che sono intervenuti dicendo di essere contenti della morte di Buonanno. Prosit, sì, amen. Sono dei pezzi di merda. Va bene, hai capirsi. Detto che sono dei pezzi di merda. Dunque, cosa, e da me cosa vuoi? Non ho capito, che c'entro io? Da te voglio che tu chiuda questa trasmissione. Che ma vai a fare in culo, ma tu chi sei? Ma chi sei? Ma parassita di chi? Ma certo, sono pagato sbagliato. Da Confindustria, sicuro. Parassita, che vuol dire parassita? Non ho capito. Parassita di chi? Parassita è uno. Ma rispetto uno a chi? Ma rispetto a chi, parassita? Cretino, rispetto a chi? A noi che paghiamo le tasse. Che paghiamo perché io non le pago? Perché io non le pago? Perché io non le pago? Quell'altro lì, quello come si chiama lì? Parenzo lì sì, perché che c'ha che c'ha lì, sì. Quella roba... ma tu hai qualche ruolo politico scusi, per casa roba aspetta, lì, aspetta però lei lo dica a casa due sua parassiti, quella roba là due parassiti tu hai qualche ruolo no. Hai ruolo hai qualche ruolo politico in Italia a Trieste io ruolo dentro la mia famiglia. Dentro la tua famiglia. Voi siete due parassiti. Parassiti, sì, noi siamo due parassiti. Sparire. Ma dica, sparire, morire anche volendo, morire. No, non dico morire. In Siberia, ma in chi Siberia. Ci manda in Siberia? Ma di che stai parlando? Di cosa parli? Parli di follie senza senso? Di che parli? Sì, sì, sì. Di che parli? Due parassiti. Ma di che cosa parassiti? Lei di cosa si occupa normale, nella vita normale, diciamo, lei? Che fa nella vita normale? Di cosa fa lei nella maestro sua vita? Maestro di vita, che fai? Normale, normale, insomma, poi di normale lei. Cacci parassiti. Ma che lavoro? C'è un numero verde per cacciare i parassiti? Come si fa? C'è un numero verde da chiamare? Come funziona? Ma questo tizio mi ricorda qualcuno, chiami, a me. Mi ricorda qualcuno, non so chi, mi ricorda qualcuno. Lei ha avuto un'infanzia felice? Sì, sì, come la tua. Sì. Ma la mia è molto felice, la sua non mi pare. No. Peccato. Alessandro di Trieste. Alessandro di Trieste. Sì, mi avete sputtanato all'infinito. Perché? No, lei Alba Dorata, ha fatto qui. Tutto. Ah, lei è quel minchione di Alba Dorata. Sì, sì, e voi siete i due parassiti che vi rompete i chi coglioni. È questo? Chi è lei questo? È quel minchione che è il segretario di un partito inesistente che si chiama Alba Dorata, quel partito nasone, di Nazistelli. Quel nasone, pagato da Confindustria. Nasone cosa intende, scusa? Ebreo. Usando lo stesso, sì, volevo capire da lui. Usando lo stereotipo, quello del nasone adunco degli ebrei, no? Questo lei dice, no, vero? Miserabile. No. Ma cos'è Alba Dorata? Cos'è? Movimento, so. È un movimento greco. Questi, no, ma cos'è? Cos'è? Non ma no, riesco è un movimento di quattro scorregge fritte, quattro scorregge fritte italiane, che per copiare quello che hanno fatto in Grecia si è inventato il movimento Alba Dorata, ma non esistono, sono quattro miserabili. Quattro miserabili. Vabbè, Alessà. Il giornalismo. Sì, vabbè, noi facciamo quello che dobbiamo. Mi dia l'indirizzo che la denunciamo alla Procura della Repubblica per istigazione all'odio. Sì. Procura della Repubblica comunista. Alla Procura. Mi dica, amici. Lei si chiama esattamente? Mi dia gli estremi per cortesia. Gardossi Alessandro. Come si chiama, scusi? Gardossi Alessandro. Vabbè, Gardossi, vatta a fare una birretta adesso, va che Trieste, meglio, va. Ciao, vai. Procura della Repubblica. Vabbè, vatta a fare una birretta così almeno ti ubriachi. Grazie. Un po', così dimentichi le cazzate che hai detto. Ciao. Allora, a proposito di Trieste, Sgarbone ha combinato un casino, è andato lì in piazza e ne ha dette di tutti i colori. È stupendo, Sgarbone. Sentite. Ma quei 29% che l'hanno votato, chi cazzo sono? Dove vivono? Saranno extracomunitari? Verranno da delle periferie? Cioè, ha detto che quelli che hanno votato quello di sinistra sono extracomunitari che vengono dalle periferie. Pronto al matrimonio il 30 luglio, in cui io sarò celebrante, quindi lo renderò subito invalido. Eliminando quella formula che i culattoni hanno eliminato per sé. Arrivano i culattoni, oltre a prenderlo nel culo, secondo quello che piace a loro, e gli piace il matrimonio perché è un'inculata, e quindi loro hanno eliminato l'obbligo della fedeltà. In realtà dice sempre le stesse cose un po' rimescolate, no? Un po' rimescolate. Vabbè, sì, sempre scambio. No, ha detto anche che questo candidato sindaco di centrodestra non aveva prima ambizioni matrimoniali, credeva solo alle famiglie degli altri, invece adesso appare indebolito, prossimo al matrimonio. E poi se l'è presa con la Merkel, che ha detto deve andare a casa e i triestini delle teste di cazzo. Anche. Fabio, provincia di Brindisi. Vai, Fabio. Sì, buonasera. Niente, volevo dirvi soltanto che di solito mi trovo d'accordo con voi quando sento la radio, però sì, questa sera diciamo di no, quando ho sentito, quando avete chiamato l'avvocato Taormina. In che senso, scusa, non ho capito. No, perché l'avete aggredito, quindi io... Perché tu sei d'accordo con quello, sei d'accordo con quello che ha scritto il Tao? Aggredito, insomma, neanche troppo. Beh, sì, sono d'accordo, cioè non mi trovo d'accordo sul fatto specifico che lui dice... Sei d'accordo o no? Non ho capito. Sei d'accordo allora, o no? No, praticamente voi ve la siete presa direttamente con lui. Ma lui con chi ce la dobbiamo prendere? Chi è che ha scritto sta cosa? Scusate, ha scritto lui, ma lui non mi pare che era... Scusa, a te danno fastidio due che si baciano per strada, due gay? Secondo te possono mi danno fastidio. Possono ispirare una strage? È un dato di fatto che no, cosa? È un dato di fatto che la strage è avvenuta per questo motivo. E allora? Perché... E allora? Quindi il fatto che avete aggredito l'avvocato Tarmina non lo concepisco, perché scusa, l'avvocato Tarmina diceva, cioè, su, sei veramente dell'idea che se due, se si fossero baciati, a parte che è tutto da verificare sta cosa, se si fossero baciati due etero non sarebbe successo? Penso di no, perché la gente, siccome qui la gente è un po' può capitare di trovare gente un po' pazza, no? Che loro, allora due gay, è un dato di fatto. Allora sopprimiamo i gay, togliamo i gay, così si eliminano le possibilità degli attentati. Non hai un cazzo da dire. Maurizio Milano, vai, fermo lì. La zanzara sono le nostre due ore e mezzo di libertà quotidiana. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Italia Morala, Italia Morala, vota Italia Morala, Morala, Italia Morala, Italia Morala, Morala, Morala, Morala, Morala, Italia Morala, Italia Morala, vota Italia Morala, Italia Morala, Italia Morala, Italia Morala, Italia Morala, Morala, Italia Morala, vota Italia Morala, Italia Morala. Mentre Berlusconi si opera domani, c'è un prete in Italia che tuona contro di lui. Parole terribili. Ma quale Dio sta ora invocando questo miserando, impotente come un nudo verme, disteso su un letto d'ospedale, in attesa di una difficile operazione chirurgica? Non è forse lo stesso Dio fantoccio condiviso con i suoi amici di merenda e di sesso, dal Vaticano pederasta alla Lega Nord ladrona e a Comunione e Liberazione? Ci ha messo tutto dentro, eh? Ci ha messo, vabbè, qualsiasi ma un cosa. Ma questo sarebbe un prete, e questo sarebbe un prete. E senti, questo senti, sarebbe senti un prete. Ancora, Don dei Capitani. La morte può stendere un velo di pietà anche sui delinquenti, ma non rende santo un farabutto e tantomeno degno di considerazione. Io però farei un terzo tentativo col Taormina, un terzo tentativo. Ancora, perché... io non lo sopporto più. No, ma ho capito, guarda, amico mio, però tu ogni volta non è che puoi non fare buttare giù il telefono. Più ma non puoi, lo sopporto più, guarda, mi dispiace. Allora non ripetiamo lo per chi non l'avesse ancora saputo. Taormina, il professore, avvocato Carlo Taormina, noto polemista, noto... Anzi, ti dirò di più, l'università per la quale lui ha questo insegnamento dovrebbe prendere dei seri provvedimenti per quello che ha scritto. Che è Urbino, che cos'è Urbino? Rieti, dottor che Vergata, non mi ricordo, Roma, cioè, dovrebbe, 3, dovrebbe essere cacciato dall'insegnamento. Non ho detto cacciato, dovrebbe prendere dei provvedimenti. Perché non vuol so, dire dei provvedimenti? L'università deciderà non in sua dell'autonomia. Non hai il coraggio di dirlo. Io ho coraggio di dire qualunque cosa. E allora, sai, appunto, quindi... hanno il coraggio di... Che vuol dire dovrebbe prendere dei provvedimenti? Interroghi, si interroghi almeno... Interroghi. Prenda in considerazione il fatto che tra i suoi accademici, e allora che dovrebbe fare? Che tra dovrebbe... i suoi accademici c'è fare? Un signore che scrive questo dopo 49 morti in una strage a Orlando. 49 omosessuali, uomini, persone omosessuali, uccise, che ne sai che erano proci tutti quelli là dentro, ci saranno pure persone eterosessuali, no? Da un folle che ha ucciso perché alcuni di questi erano omosessuali e lui ha scritto quelle porcherie, e questo è un docente universitario? L'università si interroga. Questo lo dice un ministro, non tu. Tu dovresti dire l'università Locacci. Io no, sono si interroga. Più di un ministro, si interroga. L'attentato a Orlando perché due gay si baciavano. Sta di fatto che se si fossero baciati due etero non sarebbe successo niente. Ma riproviamo. Pronto? Sì, scusami Carlo, è che Davide è veramente uno stronzo ogni volta. No, vabbè, ma io non è una persona che ormai è uscita dalle mie considerazioni. Scusami Carlo. Quando uno è numero due e cerca di voler essere numero uno, vabbè, è adesso non lo umiliare così. Però così. Guarda, ti dico una cosa Carlo, però tu hai fatto un tweet veramente incredibile. A te cioè, non piace a me. Ma dai, l'attentato Orlando perché due gay si baciavano. Io ho dato già la spiegazione. Davide, ti vuoi che vuoi ancora dire? In circolazione sta. Aspetta. Ancora in circolazione sta. Gli ebrei devono chiedere scusa a Hitler per essere. Gli ebrei devono chiedere scusa a Hitler. Gli ebrei devono chiedere scusa a Hitler per essere ebrei, vero? Vergognati! Vergognati! Vergognati! Chiedi scusa! Chiedi scusa! Chiedi scusa! Chiedi scusa! Chiedi scusa! Stando al suo ragionamento, quello dell'avvocato Taormina. Ma che c'entrano gli ebrei, Davide? Che c'entrano gli ebrei? Allora, siccome lui ha detto che i due omosessuali, siccome si sono baciati, allora è successa la strage, allora gli ebrei, per essere ebrei, devono chiedere scusa a Hitler. Vergognati! Vergognati! Ma quale padre dell'assassino? Ma tu non citavi il padre dell'assassino? Sei un mistificatore. No, è il padre dell'assassino che ha detto queste cose. Hai pestato una merda gigante oggi. Hai pestato per non stare zitto. Hai pestato una merda gigante. Hai pestato. Hai pestato una merda pazzesca oggi. L'hai pestata. L'hai pestata e ora puzzi. E devi chiedere scusa. Hai pestato una merda gigante. E devi chiedere scusa. Perché la puzza si sente fino a qua. La puzza si sente fino a qua. Fino a qua si sente. Quando uno pesta una merda si fa la doccia e chiede scusa. Capito? Capito? Buffone, buffone. Piacere Parenzo. Piacere Parenzo. Piacere Parenzo. Non molla, non molla. Anch'io mollo. No, non molla. Andrea da Vicenza, vai. Andrea. Pronto? Dimmi. Ciao, ascolta, niente, volevo dirti, il mondo è bello perché è vario. Non sei l'unico che va a pisciare nelle bottiglie o nei lavandini. Io spesso di notte... Veramente io, scusa, io per la precisione... Capito anche di pisciare dalla finestra. No, non ho capito, che fai di notte e pisci dalla finestra, non ho capito. Ma dove? Per strada, dove? Sì, se non c'è voglia di alzare, quando non c'è voglia di alzarmi, fare strada, insomma... Ma ho capito, ma pisci dalla finestra, dove? Dove dà la finestra, scusami? A 3 metri dal letto. No, non ho capito bene. Il bagno è 5. Sì, d'accordo, la finestra è a 3 metri, però la finestra, innanzitutto uno per pisciare dalla finestra si deve un po' alzare. No, c'è il giardino. Ah, vabbè, c'è il giardino. Comunque, se ti piace... Mi sembra normale. No, ma se vuoi pisciare dalla finestra... Non hai bagno in casa e fai dalla finestra come nel Medioevo, praticamente. No, voglio dire, volevo parlare di un argomento un po' serio. Ma qual è l'argomento serio? Ognuno può tornare al Medioevo come quando vuole, figuriamoci. Cioè, come, qual è l'argomento serio? Non ho capito. Quello dove pisciare, non ho capito. Certo. No, ma questo è serissimo, per carità. Però serio, pisciare basta, dalla finestra è facilmente il bagno, risolvibile con un gabinetto, non è che ci vuole un simposio. Se c'è il bagno a 5 metri, comunque. Marina, ma se te c'è il bagno e pisci nel lavandino, cosa cambia? Perché siete tutti degli sporcaccioni, ma questo è evidente. Comunque, Marina da Firenze, Marina da Firenze. Sì, ciao. Sì. No, volevo solo dire questo, che forse te, Cruciani, vivi in un'Italia più fortunata, magari nei giorni degli industriali, degli intellettuali, perché io sono lesbica. No, intellettuali no. Non vivo affatto l'Italia degli intellettuali. Di omofobia ne ho vista, ne ho subita, ne ho vissuta. Tipo? Fammi un esempio. Fammi un esempio. Ma quanta ne vuoi? Ma quella non è omofobia. Che vuol dire omofobia? Non è... Io parlo di reato. Non ho detto che non ci sono pregiudizi nei confronti degli omosessuali. No, figuriamoci. Hai detto, io parlo di reati. Che di persone che si rivolgevano ad Inolfi, a Manif, a Generazione Famiglia, no? No, io dico, anche qualcuno... voi contribuite ad un clima, fammi finire, io ho detto, Marina, scusa, fammi, io ho detto un'altra cosa, allora ho detto che c'è qualcuno, aspetta un attimo, scusa, faccio, finisco un pensiero, dimmi. Allora tu hai detto che non aveva senso dire una cosa del genere, che persone come Adinolfi e compagnia bella contribuiscono ad un clima omofobico, invece certo, no, io che non ho detto tu questo. Sei mandato a sentire cosa questo. Dicono gli amici di Manif, le sentinelle in piedi, non so, Manif, sentinelle in piedi, tutte odio, sigle, la gente non conosce. Odio si traduce in 4 parole, allora, in 4 lettere, vabbè, odio. Per te è odio, per me sono idee. Istigazione all'odio, no istigazione vai, a che cosa? Questo. Istigazione all'odio che vuol dire? Io sono andata a convegni di Manif. Sono andata. Ma perché cos'è sono Manif? La gente non sa, la gente non sa cos'è. Cioè, cos'è Manif? Cos'è? Ma come non lo sa? No, io lo so. No, lo io sai. Lo so, ma spiegalo, ma che cos'è. La gente normale non lo sa. La gente, il popolo, la gente non lo sa. Manif. No, ma tu ascolta, se tu hai dei figli che vanno a scuola, sicuramente ti è arrivato un messaggino in cui no, non mi è arrivato. Diceva di niente. Guarda, non mi è arrivato, guarda. Dei pochi, sei uno dei pochi. Senti, comunque, Marina, io ho detto un'altra cosa. Io ho detto un'altra cosa. Con le sentinelle in piedi. Sì, va bene, d'accordo. Se io ho detto un'altra. L'odio, va bene. L'odio omofobico. Va bene. Marina, io ho detto una cosa molto semplice. Ho detto che qualcuno in queste ore attribuisce a signor Adinolfi e ad altri la responsabilità indiretta dell'odio e dunque di quello che... Ma assolutamente fanno bene ad attribuire. Ah, bene, come i mandanti della strage di Orlando sarebbero Adinolfi e Coppola. Non è questo. Siete ridicoli, siete ridicoli. No, ma non è questo, che tutti dovremmo fare un passo indietro. Ma passo dire, indietro che cosa? Che hanno le loro idee. Ma che c'entra le loro idee? Ma non alimentiamo l'odio. Allora, no? Senti Marina, allora c'è una frase di Adinolfi, c'è una frase di Adinolfi che è quella del prendiamo i fucili, no? Cioè che può essere ovviamente contestata e io non mi ricordo bene come lui l'abbia contestata quando dice se passa frase, questa legge bisognerebbe prendere disprezzo. I fucili. Guarda che non serve prendere i fucili per rovinare la vita a una persona. Ma e che ti odio, saluto ma con non, questo, c'è, non c'è né odio né disprezzo, sono idee che io non approvo, ma sono sicuro che Adinolfi non torcerebbe un capello a un omosessuale, su questo non c'è dubbio. Siete due merde. La Zanzara. Poi la cosa che mi fa impazzire su questa vicenda di Orlando è che in realtà non si parla dell'unica cosa concreta, ancora non verificata al 100%, eccetera, certo. Eccetera. L'Islam, ragazzi miei, l'Islam. Vabbè, certo, quando non c'entra niente qui Adinolfi, c'è Aurelio Mancuso. Che l'omofobia può essere ragazzi, sia islamica. Ma non diciamo cazzate, ma che c'entra cattolico? Adesso con Orlando? Dai, quello su. Può essere hanno attaccato. L'Islam... Allora, hanno attaccato Adinolfi perché ha dato la sua solidarietà alla comunità degli omosessuali. Ma per quello non può esprimere solidarietà. Adinolfi sai, sì, non può esprimere solidarietà. Esprimerla, ma dopo tutto quello che ha detto, francamente può sembrare una beffa. Ma qui perché, c'è insomma... la morte, la strage, ma ragazzi, ma di che parlate? O considerate io le idee di Adinolfi la premessa delle stragi? Io credo che ci sia una responsabilità delle cose che uno dice, su questo non e c'è allora, un po' di dubbio. Allora dillo. Quindi io Adinolfi sto dicendo che ispira la violenza, ispira violenza nei confronti dei gay. Ma guarda che sono due cose completamente diverse. Niente, ispira non riesce la a dirlo, violenza. Non riesci a dirlo, allora non so che dici. Ma cos'è che devo dire? Allora non so che dici. Allora, che sai che le persone che ascoltano forse capiscono più di te. Ma di che sarebbero responsabili? Io sto dicendo questo. Le parole non hanno nessuna responsabilità, le parole? Si può dire qualunque cosa? No, sì, ma che c'entra di noi? Si può dire qualunque cosa. Allora, dire che i gay sono anormali, sì. È evidente che il ragazzino che due mesi fa si è buttato perché si vergognava di essere gay non è direttamente responsabile di noi. Si è buttato, poi solo delle lettere. Ha lasciato un biglietto con sopra scritto. Suicidi magari non per quello, per mille cose. Vabbè, allora, cioè, non è che ci sono 100 suicidi di gay in Italia. Aveva scritto ma ne basta uno solo. Bastane uno solo. È colpa solo. Di Adinolfi. Qualcuno che ti prende in giro a scuola. È colpa di Adinolfi. Ma non è di Adinolfi, ma se si crea un clima per cui è normale dire che è anormale essere gay. Ma chi gay? Ha detto che è normale? Se è lecito dire qualsiasi allora stronzata qui... ti passi no, per la testa. No, invece deve essere punita questa cosa. Beh, io sono perché le cose... Ma se scusami, tu dici ma se che il gay è normale che... deve andare ma in galera. Ma se uno ti dice che tu sei un potenziale stronzo pedofilo, tu giustamente ma lo quereli. Ma che pedofilo è una cosa, un pedofilo è una cosa. Dare invece del frocio a uno è normale. Se ti dico frocio di merda tu mi porti in tribunale, io sei un coglione. Certo che ti porto in tribunale. Se vuoi un reato per così tu io ti porto in tribunale, certo che ti porto in tribunale. Chi c'è questo qua? Gini? Come se uno mi dice però di merda, io lo porto in tribunale, certo. Ginia da Torino. Io francamente sì. Ginia Torino, vai. Eccomi. Vai, Ginia, che nome è Ginia? Eccomi, Ginia, diminutivo di Virginia, tu pure. Virginia, bene, non è che uno si chiama Virginia, invece Ginia, vabbè. Dunque, comunque. Vabbè. Su quest'ultima discussione sono d'accordissimo con Parenzo. Ma non c'è dubbio, a parte quello che non... Ma ragazzi, se volete... È la normalità, non è una cosa strana. Se volete portare in tribunale Taormina, perché ha detto sta cazzata, portate in tribunale Taormina, ragazzi. Dunque, fate il cazzo Taormina, volevo parlare proprio di Taormina, sempre più squallido, è un fascista perso, secondo me, perché non può esprimere un concetto, una persona laureata. No, ma ha detto una follia, genere. Ha detto una follia, punto e basta. No, si pagano. Ma si pagano dove? Ha parlato di baci e vai in tribunale per una cosa del genere? Ma di che stai parlando? Ragazzi, ma non scherziamo, dai. No, ma mi lasci parlare, scusa, o parli tu dimmi, o parlo Ginia, io, dimmi, parliamo un dimmi, po' uno e un po' dimmi. L'altro. Allora, volevo dire questo, non può dire in buona fede, non può sostenere in buona fede che quel tipo che ha commesso quel pazzoide, che ha commesso quella strage, l'abbia fatta perché ha visto due uomini baciarsi. Non sta né in cielo né in terra. Ha detto una coglionata, punto. Cosa c'entra questo con i tribunali, col portarlo in tribunale e processarlo per omofobia? Il reato di omofobia non c'è ancora, purtroppo. No, ma quello non l'ho sentito, non lo so, avevo spento la radio. Va bene, ho capito, parlavo... Ginia, grazie, ciao. Allora, è lunedì, Matteo Salvini con noi, buonasera. Buonasera. Dove andiamo? Buonasera, da Cascina, in provincia di Pisa. Oh, Cascina, ci sarà qualche ballottaggio con la Lega lì, ci sarà qualche ballottaggio. Il PD aveva la sinistra, ha sempre vinto al primo turno con 70%, per la prima volta c'è il ballottaggio. E mo vinceranno. Quindi ci tengo a Cascina quasi come a Milano. Bravo, sul territorio. Vincere in trasferta dà più gusto che non vincere in casa. Ma sì, vabbè, certo. Parenzo, No, devo ringraziare Salvini perché so che ho usato parole di affetto nei miei confronti a Radio Cusano Campus e quindi sinceramente. Ma perché che ha detto? Non ho capito. Ma ha detto? Ha detto Parenzo è un amico da anni, si atteggia buonista, ma ci conosciamo da tanto tempo e quindi va bene. Abbiamo siamo riusciti più di una volta a bere una cosa insieme. Adesso a Cascina. Mi ha detto, ma secondo te Parenzo è convinto delle cazzate che dice o lo dice perché lo deve dire? No, lo conosco, le dice perché le deve dire. No, su questo ti sbagli di grossissimo perché sono straconvinto invece, anzi, però va bene, comunque ci conosciamo. Senti, tanti anni. Io non ho capito, che pensi di quello che è successo a Orlando, che è colpa dell'omofobia o è colpa dell'Islam? Perché qui nessuno parla dell'Islam, che adesso per carità... È la vergogna del politicamente corretto di una sinistra che occupa il Parlamento per un anno sulle unioni gay... E poi apre moschee su moschee facendo finta che l'Islam tolleri l'omosessualità, mentre in 9 paesi islamici è prevista la pena di morte per l'omosessualità. Certo. Quindi è chiaramente, l'ha rivendicato l'ISIS, mica l'ha rivendicato Salvini, purtroppo. Quindi potevano essere 50 eterosessuali come 50 omosessuali. Qua il terrorismo e il fanatismo islamico. Però qui si parla, la cosa incredibile, Davide, è che si parla di adinolfi, di omofobia in Italia, di cose che non hanno senso. E nessuno parla nessuno parla dell'unica cosa concreta. Cioè che c'è un signore, un pazzo, un ragazzo, un giovane, diciamo, che è forse ispirato dall'ISIS, ma non si sa bene ancora, che però ha in testa una sola cosa: uccidere delle persone in nome dell'Islam, sembra, in nome dell'Islam. La religione islamica odia gli omosessuali, diciamo la verità, odia gli omosessuali. Ma se voi siete per la libertà di parola, però perché vi stupite tanto? No, questo che c'entra con l'ammazzare, scusa. No, ammazzare è un altro discorso. Ma tu sei per la libertà di ammazzamento. Parola, ma tu devi tollerare il fatto che, ad esempio, un pazzo, un imam, possa dire che i froci vanno uccisi. Ma quella è istigazione alla violenza, che dice che vanno uccisi. Quella è istigazione alla violenza. Ma certo, quando dici che vanno uccisi è una cosa, quando esprime delle idee è un'altra. Ma è chiara la differenza o no? Se io dico Parenzo deve essere ucciso, Parenzo è un coglione, sarà diverso o no? Sarà diverso. Se sei islamico, voi dite, siccome islamico è un pericolo per il paese, voi lo dite sempre, mi pare, no? Quindi mettetevi d'accordo. No, ma la contraddizione di una sinistra che si occupa dei diritti per le coppie gay e poi dice che non c'è problema se arrivano migliaia di islamici in Italia, quando in 9 paesi islamici è prevista la pena di morte. Ci mancherebbe altro, quello schifo, che per loro infatti è un reato. In altri 2 è previsto l'ergastolo, altrove è prevista la fustigazione. I 50 poveri morti di Orlando valgono i morti del Bataclan. Qua c'è il fanatismo islamico che noi stiamo facendo entrare in casa. Vabbè, come se nulla fosse. Non è che sono tutti estremisti islamici quelli che entrano in Italia. No, comunque... fortunatamente no, ma ne basta uno, abbiamo visto. Comunque, non, ragazzi, non ne servono 100.000, ne bastano 15. L'altra cosa assurda è che una parte della comunità omosessuale in queste ore dice: beh, non si dà tanta rilevanza a questi morti come il Bataclan. Ma che è un'altra minchiata. Cioè, ma vogliamo smontare queste minchiate che vengono dette una per una, queste cazzate? Ci sono prime pagine dei giornali, servizi, eccetera. Che c'entra Bataclan? Non so chi l'ha detto, un altro esponente della comunità gay. Non è vero, si dà tutta la rilevanza possibile, ma perché bisogna dire queste puttanate pazzesche? Ma perché ha rotto l'incantesimo della sinistra del politicamente corretto. Cioè perché l'islamico che ammazza i gay. Insieme... ragazzi, l'islamico che ammazza i gay. È la verità in giro per il mondo, purtroppo. E poi, anche se avessi ammazzato una persona, non mi interessa se è eterosessuale, omosessuale, gay, trans, lesbica. Beh, è devo dire che il padre ha detto, il padre ha detto una cosa. I gay non li giudica l'uomo, non devono essere giudicati l'uomo, ma devono essere giudicati da Dio. Questo è il punto fondamentale. Qui non c'è nessun giudizio. Dio non deve giudicare i gay. Ma di che stiamo parlando? Che ne pensi di Cruciani e Parenzo? La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Allora, caro David, un amico comune da Prato mi scrive: se vuoi mettiamo all'asta un numero del Mein Kampf originale, cioè una copia originale, che non so cosa significa, evidentemente una copia, vuol dire dell'epoca, no? Copia dell'epoca, una certo. Copia dell'epoca, sì, una copia originale del Mein Kampf. E domani magari ci pensiamo, mettere all'asta una copia originale del Mein Kampf. Da quanto si parte? Amico mio, da Prato? Mandami un messaggio. Diciamo il nome anche, ma si sì, ma dopo nome... lo dico, adesso, ma siccome non me l'ha detto, non lo posso dire così. Cioè, dimmi da quale base d'asta possiamo partire, cioè per questa copia originale del Mein Kampf. Io voglio capire se Salvini ha comprato il giornale 11 euro insieme al Mein Kampf. No, non te ne frega niente del Mein Kampf. No, l'ho letto da giovane, come ho letto, ma l'hai letto il manuale io. Di guerriglia urbana di Ernesto Che Guevara, perché è storia, però... Perché eri più comunista, eri più comunista che di destra, no, tu dicevo. Perché sono curioso, ho letto il libretto rosso di Mao, così come... Vabbè, eri più comunista si sa, cioè... No, ma ho letto anche più di un libro su Mussolini e spero di non essere arrestato per questo. Io non l'avrei allegato al giornale. Bravo, perché? Vedi? Perché le Bravo. Critiche di certa sinistra erano banalmente scontate, ovviamente. Però ma a che storia, serve? Poi uno... In quale paese d'Europa allegano con un quotidiano? Ma non allegano, ragazzi, si pagava 11 euro, ma che dite? Alla fine si non pagava. Non c'era il diario di Anna Frank che si poteva allegare per ma capire cosa la Shoah? C'entra? Ma che c'entra? O Primo Levi? È un'operazione commerciale che vuole destare scalpore. Paracula. Che vuole destare scalpore, allora come è normale che sia. Come ma normale è un che cazzo sia. In un... Ma perché? Ma allora uno lo critica. Allora ma tu li manderesti in galera quelli che vendono i Mein Kampf addirittura? No, li processeresti, in galera, no, io farei come in Germania, cioè in Germania si pubblica in Baviera, si pubblica con tutte le note, i commenti e quant'altro. Vorrei che si allega col giornale. Guarda, come si fosse può un comprare su internet tranquillamente, si può ordinare, si può fare quello che uno ma vuole. Ma è criticabile l'iniziativa editoriale ma di un sì, gruppo? Ma no, critica, e allora di questo critica, si sta parlando. Critica, tu puoi criticare quello che vuoi, figuriamoci. Senti. Ma guarda. Il nazismo e Hitler sono stati sconfitti dalla storia, purtroppo certo. L'Unione Europea di oggi di danni ne fa di uguali, adesso stanno facendo il terrorismo sulla Brexit, leggevo che le borse crollerebbero per paura del referendum inglese. Cioè, mi stai dicendo che ha fatto, più danni del nazismo? L'Unione Europea di oggi sta facendo gli stessi danni che facevano i carri armati e le bombe. Quella hanno ammazzato 6 milioni di persone, c'è stato un la finanza invece di ammazzare con ma i fucili. Ma ammazzano con la finanza? Ma non facciamo paragoni. Hanno ammazzato milioni di persone, Matteo, su, hanno ammazzato milioni di persone. Ma guarda, la crisi economica che stiamo vivendo oggi è una crisi da dopoguerra. Ripeto, invece delle camicie brune ci sono quelli in giacca e cravatta che stanno a Bruxelles, che stanno sortendo gli stessi identici risultati, purtroppo. Cioè, invece delle camicie brune ci sono quelli in giacca e cravatta. Cioè, apparente Juncker, secondo te, è come un generale nazista? Beh, ma scusa, quando il presidente del Consiglio d'Europa, Tusk, oggi dice se vince il sì in Gran Bretagna è la fine della civiltà occidentale. Vabbè, ma quella ma è una cazzata, che vuol dire? Ma quella è una cazzata, punto e basta. Ma questo è presidente del Consiglio Europeo. Sì, tu mi stai dicendo, però... D'accordo, infatti quello lei è un coglione. Quello è un coglione, d'accordo, però... Ma non ha tutti i torti, David. Non ha assolutamente tutti i torti. Scusami, David, tu puoi essere d'accordo o no sul referendum inglese, ma non puoi dire che finisce la civiltà europea, dai, su! L'effetto domino, effetto domino però, e potrebbero anche i paesi seguire questa nefasta degli ideali europei. L'Unione Europea è l'interesse di pochi banchieri finanziari, la faccia di 500 ma quali banchieri? Ma se, sono i governi che decidono tutto, però scusami, Matteo, scusami un attimo, ma tu stai paragonando però i funzionari dell'Unione Europea che ai generali nazisti? I funzionari fanno il loro lavoro, ai governanti dell'Unione Europea ai generali nazisti. L'Europa in questo momento sta sortendo gli stessi risultati in termini di fame, di povertà e di morte di chi occupò l'Europa 70-80 cioè per cui il presidente della Commissione Europea è come se fosse Goebbels, non lo so, una cosa del genere. Scusa, ma paragone... la storia non si ripete. Beh, ho capito, ma quello stai dicendo. Che follia, che follia. Sono gli stessi, i risultati sono gli stessi. Invece che coi cannoni, con lo spread, molto semplicemente affamando le persone. Comunque ti voglio segnalare, Davide, ti voglio segnalare che Feltrinelli, non dico Mondadori, vende in 3 edizioni diverse Mein Kampf. Ma in 3 edizioni capire la differenza è fondamentale, però. Si sta criticando un'iniziativa editoriale di un gruppo, cioè il giornale, che ha deciso, come tu stesso hai riconosciuto, per fare una ecco, per fare puro marketing, per fare che vuoi che facciano? Scusa, quelli allora che vendono caramelle, che vendono, che pettinano le bambole, ma che allora fanno? Non è un'operazione culturale. Ma quale operazione culturale? Cioè, mentre è un'operazione per fare casino, pubblica... quale culturale? E allora questo è criticabile, appunto per questo. Ah, ti scandalizza che vogliano fare i soldi, che vogliano fare marketing. Certamente. Ti scandalizza fare adesso, ti scandalizza. Con Hitler. No, non mi scandalizza, lo, semplicemente la perché quelli che lo vendono, quelli che lo vendono una cosa, allora quelli che lo vendono in libreria non lo vogliono vendere, che vogliono? Ma tu dici cose per stupidità o perché ci credi? Pazzesca, guarda, cioè pazzesca. Tu sei stupido o dici veramente o pensi veramente allora, a quello che voglio chiedere dici? A Salvini una cosa ma la differenza la sai notare tu anche faresti, te però immagino il referendum domani mattina, quello sull'uscita dall'Europa, dell'Italia, no? In Italia dovrebbe esserci domani mattina, sì, il purtroppo referendum. La Costituzione italiana lo vieta e la stessa riforma di Renzi, appunto, motivo per cui voterò no, impedisce a vita agli italiani di votare su qualunque scelta arrivi dall'Europa, no, la Costituzione no, la Costituzione non Renzi, la Costituzione lo impedisce, non Renzi. Ma Renzi nella sua modifica l'articolo 75 avrebbe potuto toccarlo perché gli italiani potrebbero dire qualcosina sulle scelte di Bruxelles. Senti, invece no, se Renzi, se Renzi sulle scelte europee non devono metterci becco. Per cui tu faresti il referendum domani mattina, usciresti dall'euro domani mattina, no? Perché a un certo punto guarda, ci sono i paesi europei che stanno crescendo di più, hanno la loro moneta. Penso all'Ungheria, penso alla Polonia, penso alla stessa perché Gran per un Bretagna. Periodo non ne parlavi più di questa storia dell'euro, sei ritornata. No, ma guarda, ma non è che Salvini fa la guerra all'euro, è l'euro che è una moneta sbagliata, secondo sette premi Nobel, secondo qualunque negoziante, artigiano, agricoltore italiano, e salterà. Senti una cosa, ma tu hai detto la settimana scorsa che avresti suggerito a chi te lo chiedeva il voto per i 5 Stelle al Comune. Loro però ti hanno un po', cioè per l'Appendino e per la Raggi, questi 5 Stelle ti hanno un po' schifato, devo dire la verità. Ma ci sono stati dei contatti in questa settimana? Hai sentito qualcuno dei 5 Stelle o no? No, guarda, il contatto che ho avuto, e lo ringrazio, l'ho avuto via SMS con Alessandro Di Battista, che è stato il primo a fare le condoglianze per la morte di Gianluca Buonanno. E di questo gli do merito e gli do atto, ma io ripeto quello che dico senza chiedere nulla in cambio. Dove non c'è il centrodestra al ballottaggio, dove c'è un sindaco del PD uscente che ha fatto male il suo lavoro, tu io voterei a Torino piuttosto che a Roma i 5 Stelle. 5 Stelle dicono chi se ne frega. Vabbè, questo è il pensiero di Salvini, che non pretende di vincolare gli altri. Per cui non c'è nessuna alleanza, come si è parlato in questa settimana, non le alleanze sotterranee. Sotto il banco, assolutamente no. Gli elettori dei 5 Stelle a Milano, come a Bologna, come a Novara, valuteranno. Senti, loro ma Berlusconi no, ammalato piuttosto seriamente, ovviamente speriamo che vada bene l'operazione e tutto eccetera, però c'è un problema serio di successione più o meno in un centrodestra, sì o no? Ma perché si è parlato anche... no, non c'è. Soprattutto in un momento in cui magari ci ascolta dal letto, gli posso fare solo gli auguri e non parlo di ma ha detto, politico, ha detto che voleva che lo andassi a trovare, ci sei andato o no? No, andrò a trovare quando sarà il caso clinicamente di andarlo a trovare. No, però ha detto, ha espresso il desiderio, ho fatto sapere che gli farebbe piacere una tua visita al Berlusca. Ho fatto arrivare i miei migliori auguri appena l'operazione finirà, e finirà bene, ne sono sicuro. Cioè in ospedale non ci vai? Ci vai in ospedale o no a trovarlo? Sì. Vabbè, secondo dopo te vado a rompere le scatole uno il giorno prima che sia operato? No, il giorno prima. No, ma la famiglia ha detto di no, va solo la famiglia. Quando, giustamente la famiglia lo tutela, quando si riprenderà sarò il primo, il secondo, il terzo a andare a trovare. Vabbè, comunque Adinolfi ha scritto, grazie a Cruciani che mi difende alla zanzara, meno a Davide Parenzo che dice cazzate. Va bene, ciao Matteo. Me ne farò una ragione, lei. Roberto Modena, vai Roberto. Roberto? Sì? Dimmi, dai, hai chiamato tu, mica ho chiamato io, amico mio, dai. No, è che non lo sentivo. Sentivo. Volevo dirti, all'inizio della trasmissione ho sentito quell'intervento di Taormina e del sacerdote. Sì, allora, sì. Per quanto riguarda Taormina, devo dire che io sono d'accordissimo con Parenzo, molto spesso non sono d'accordo, ma questa volta sono d'accordo. Cioè, io sono padre di un ragazzo gay e sentire queste cose mi fa veramente inorridire. Cioè, questo professor Taormina, che si crede essere così intelligente, dovrebbe pensare che ha davanti delle persone e non dei mostri. Quindi la persona è da rispettare in tutti i casi. Vabbè, questo, ma questo lo sappiamo, ha detto una minchiata, dai ragazzi. Quando uno non rispetta le persone, paga nei ma paesi paga civili, in che modo? Tribunale, paga in che modo? Cioè, secondo te questa frase qui, l'attentato a Orlando perché due gay si baciavano, no, sta di fatto, aspetta, sta di fatto che se si fossero baciati due etero non sarebbe successo niente. Beh, questa frase qui deve essere portata in tribunale. Se io fossi il padre di un ragazzo omosessuale, lo porteresti in tribunale? Mi sentirei molto offeso. E vabbè, offeso è un altro discorso. Poi no, io se mi sento offeso non. E che fai? Non ho capito. Nei paesi islamici ti tagliano la gola. Nei paesi occidentali civili ti tagliano la gola, civili, ti tagliano la gola chi? Ti tagliano la gola agli omosessuali. Agli omosessuali. In generale, se tu dici una cazzata in un paese islamico ti tagliano la gola. Da noi c'è lo Stato di diritto. Vabbè. Ci sono i tribunali. Ma qui non c'è nessun reato. Anna da Latina. C'è semplicemente un signore che ha offeso pesantemente la comunità. La comunità, non è che la comunità si offende. La comunità, anche questa cosa della comunità. Esistono le persone singole. Non sono tutti come te, sai. Anna, esistono le persone singole. Esattamente. Ma Anna da Latina. Esiste anche la comunità degli omosessuali. Perdonate, col massimo rispetto. Sì, togli viva voce, togli gli auricolari, togli gli altoparlanti, quello che è, se non si sente la mazza, dai. Quello che stavo dicendo è che è assurda la polemica che avete fatto con Paolina. Perché Paolina, è assurda? Può essere discutibile come idea, ognuno ha la sua. Però che ha saltato addosso a Paolina perché semplicemente ha riportato le parole del padre. Dell'omicidio. Ma non ha riportato le parole del padre, amica mia, non ci pigliamo per il culo. Carlo Taormina, non citando il padre, ha detto una cosa molto semplice: che se i due gay, cioè delle persone gay, si possono risparmiare il fatto di baciarsi in pubblico. Quello è il punto. Se si baciano, possono scatenare gli istinti più belluini delle persone. Questo ha detto Taormina. E siccome poi ha capito di aver pestato una merda, non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo e ha attribuito queste parole al padre. Punto e basta. Molto semplice. Quindi, evidentemente, anche lui si è reso conto della cazzata che ha detto. Tutti dicono che è una cazzata. Allora, il problema è diverso. Problema per questa frase qui, non si va in tribunale, si dice sei un coglione. E questo basta. Lo dici tu? Qualcuno, ma che si sente offeso, è giusto che vada in tribunale, anzi. Andate tutti in tribunale, andate a far culo. Cruciani, sei un figlio del demonio. La Zanzara. E quindi? Che cos'è che ti avrebbe smosso la mia vocina? Parenzo, sei un ragazzaccio. Questa è quella che ti aveva un po' entusiasmato con la sua voce, eh? Sì, simpatica, questa bella voce, cioè. Allora, c'è un signore che si chiama Gianluca Colucci, della Chiesa Cristiano-Evangelica Pentecostale, che ha scritto: la strage di Orlando, il giusto giudizio di Dio contro gli omosessuali. Il giusto giudizio di Dio contro gli omosessuali, eh? Da Roma, vai Enrico. Sì, ciao, volevo parlare a proposito di questo principe del foro. Sì, chi è? Ah, Taormina sempre, sì. Taormina, esatto, sì, principe dei paraculi. Sì. A quanto pare, no? Perché secondo lui basta che un padre parla, sì, ed è lecito padre che sembra mandato a un assassino. Padre che quindi sembra lui altrettanto coglione come il figlio, praticamente. Esatto, ma questo qual è la, diciamo, la essendo un avvocato, insomma. Non ho capito, Enrico, parla meglio perché si sente male. È uno stato etico quello che lui invoca. Sì, pratica. Ma non invoca niente, in realtà dice solo una cazzata, cioè non invoca cazzata, uno stato però, etico. Insomma, detta da qualcuno che dovrebbe, che argomenta le sue affermazioni riportandole da altri, insomma. Va bene, Giovanni, Giovanni Torino, vai. Ciao ragazzi. Vai, dimmi. Ma volevo porvi un piccolo sulla questione di questi femminicidi, di queste ragazze che vengono uccise da queste teste di minchia che ci sono, vorrei porvi la visione dei papà. Io sono un papà di una ragazzina, ma possibile che non ci sia un papa che aspetta uno di questi qui fuori, quando finisce la sua pena in galera, che gli dà il resto di quello che si merita? Cioè, non ho capito. Ce n'è uno. Spiegami che cosa faresti tu, non ho capito. No, non c'è. Cioè, questi andrebbero ammazzati una volta usciti dalla galera, andrebbero ammazzati. Sì, bisogna assaltarli. Eccone un altro. Ma garanti, ma non ce n'è uno. Eccone un altro, garantito. Non ce n'è uno che li aspetta fuori. Non ce n'è uno che tu ti rammarichi per questo, no? Mi rammarico tanto. L'altra settimana abbiamo visto un papà che hanno condannato uno stupratore, uno che ha ucciso sua figlia, a Cincinnati negli Stati Uniti. Questo si è girato, gli è volato al collo e poi l'hanno fermato, per carità. Ma un istinto, ma qua non c'è più questa cosa qua. Non ci sono uomini con le palle, evidentemente. Io non lo so, non ne ho idea. Ci sono uomini con le palle che prendono la pistola e ammazzano l'assassino quando esce dalla galera. Cioè, tu dici, ma no? Secondo me uno così dovrebbe fare quella fine, ecco. Non beh, si può pensare a fare un elenco di persone che stanno per uscire dal carcere, Parenzo, di assassini, eccetera, pedofili, eccetera, e poi fare delle spedizioni punitive davanti al carcere. Appena esci dalla cella, pum, pistola in testa. Devo dire la verità, è diventato il mio idolo. È l'allenatore della Germania, Löw, no? Non so se hai visto queste straordinarie immagini, perché tu non ti interessi di queste cose popolari, scusami, che riguardano il calcio. Allora, l'allenatore della Germania, praticamente, gente ieri che suda correndo, si è toccato il culo. Sì, e l'ho vista su tutti i siti. Ha portato la mano al naso. Sì, è su tutti e i siti. E si è odorato, si è grattato dietro. Dal calcio, diciamo. Hai detto tre volte. Si è grattato dietro il sedere. È un tuo idolo, perché? Numero uno. Assoluto. Fa come fai tu, insomma, magari è una scaramanzia. Poi si è grattato anche il pacco. No, io veramente non lo faccio quello. E si è grattato il pacco e si è anche scaccolato. E che pare schifo. Che si sia anche mangiato una caccola. Che schifo. Allora, Don Pusceddu è un prete, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, che avrebbe detto in una specie di omelia che i gay devono morire, citando un passaggio di San Paolo. È un posto, non so dov'è, Casteddu, insomma, un posto vicino Cagliari. Io lo chiamerei, farei una telefonatina a questo Don Pusceddu, mancava anche lui stasera, Pronto? Don Pusceddu, buonasera, come sta? Buonasera, intanto con chi parlo? Sono Cruciani. E Parenzo. Lei è il numero uno. No, non mi dica lei così. Lei è il numero uno, dottor Cruciani, io la seguo sempre. Sì, però Don Pusceddu... Mi permetto di dirle che lei è il numero uno. Ma lei deve seguire le anime, non Cruciani, che è il diavolo. Lei deve seguire gli agnellini, no. Non Satana. No. Quello è Satana. Cruciani è Satana. No. No, è anche vero. Piuttosto sporco Cugiano. Come Satana, peraltro. Scusi, lei Don Pusceddu. È un prete, cazzo. Non può fare l'esaltazione di Cruciani. Lei è un prete, santo in cielo. Ma Don Pusceddu sta cercando con questa dichiarazione un po' di ammorbidirmi. Ma capito? Ammorbidire. Sì, sta cercando di ammorbidirmi. Come, no? Come fa un uomo di chiesa a dire che Cruciani è un grande? Come fa un uomo di chiesa? È tutto finito. Lo capite o no? Che è tutto finito. Lo seguo sempre. Ma non così deve dire così. Deve seguire Radio Maria. Non è normale seguire. Che un prete segua Cruciani, non è normale. Lei non lo segue, Don Livio? No, mai. Questo è buono. Non è normale. È bocciatissimo. Come mai? Ma perché non condivido le sue idee. Non sfuggiamo alla cosa. Lei ha detto, secondo quello che riportano i giornali, che i gay meritano la morte. A Orlando, aspetti, a Orlando uno ha preso un fucile, una pistola, quella che è, e ha fatto una strage di omosessuali. Si penta. Quel ragazzo che ha fatto questo gesto andrebbe veramente giustiziato lui. Perché io gli omosessuali li rispetto, gli do la comunione, li seguo, gli faccio fare un cammino. Che cammino? Un cammino verso fare. Cosa? Verso cosa? Come tutti, uguali a tutti gli altri. Io l'ho sentita bene l'omelia, che i gay meritano la morte. Intanto lì non si intende la morte fisica, ovviamente. Come no, la morte si che... Si intende una morte spirituale, perché chi conosce la scrittura sanno che si intende la morte spirituale, di certo non la morte fisica. Ho capito, qui non è specificato, però... Come la predica rivolta ai fedeli, non è un comizio politico, perciò per me è scontato che chi sta ascoltando sa... Cioè non possono esistere omosessuali credenti, è una contraddizione in termini, secondo lei? No, Il problema è che gli omosessuali credenti possono esistere, eh? Ma chi è omosessuale credente sa benissimo che l'atto omosessuale è un peccato, punto. Certo che lei esistono è perché come sì. Un peccato la pedofilia è mortale, tutto quello che vuole lei, come un peccato rubare, come un peccato tutto quello che vuole lei. Ovviamente chi va in chiesa e vuole fare un cammino cattolico, l'insegnamento della chiesa è questo, abbia pazienza. Lei ha citato un passo di San Paolo. Sì, ma il passo di San Paolo parla di peccato mortale per quanto riguarda l'atto omosessuale. Intendo la sodomia, va bene? Ah, ecco, la sodomia. La sodomia, però esiste anche tra gli eterosessuali la sodomia. Vabbè, è peccato pure quello. Dico che l'atto omosessuale è un peccato. Ma perché è un peccato? Punto. Ma se due vogliono avere un atto omosessuale tra di loro, che si tratta sostanzialmente di fare sesso anale, anale, Don Boucher. Nessuno sta andando a giudicare chi non vuole stare nella chiesa. No, lei ha evocato italiano. La morte, ha evocato la parola morte collegata ai gay. Come no? Come no? No, sì. Ma no, io non ho evocato la morte. Se lei ha una Bibbia davanti, si prende la Bibbia, le cito adesso il passo e insieme facciamo l'esegesi. No, ce l'ho il passo davanti, ce l'ho il passo davanti. Ma lei ce l'ha davanti? Ma sì, ce l'ho davanti, certo. Se lei ha il passo davanti, ovviamente ne vince. Che Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne. Abbia pazienza, dottor Crucia, ma io posso esprimere la mia opinione? Cioè che i gay sono stati abbandonati da Dio? I gay sono stati abbandonati da Dio? Chi fa gli atti omosessuali? Sì. Cioè i gay, chi sono? No, no, c'è una differenza. L'omosessuale che vuole fare un cammino di fede è un conto. L'omosessuale che vive gli atti omosessuali è un altro paio. Ma due omosessuali che si baciano in piazza, si baciano per strada, che effetto le fanno? Io ho un'impressione di imbarazzo, ma qui non lo fanno perché. Perché non lo fanno? Perché non c'è quel tipo di cultura. Come non c'è quel tipo di cultura? Ci saranno gli froci là, da lei o no? Penso di no, ma in ogni caso, seppure ci fossero, io non me ne sono mai accorto. Ah, non ce ne sono. Dov'è che abita lei? Decimo Puzzo. Là non ci sono, non ci sono omosessuali. Ma penso proprio di no. Ma come no? Ma c'è una quota di omosessuali ovunque. Ma il gay pride, secondo lei, queste manifestazioni a lei piacciono? Ma guardi, a me personalmente no. Abbia pazienza, anche perché poi voglio dirle, non so se lei ha avuto modo di vedere lo spot pubblicitario del Gay Pride. C'è una mamma, è un bambino, all'incirca un bambino di 8 anni, 9 sì, anni, no? Sì. Incontrano una manifestazione del Gay Pride, sì. Questa mamma dice non guardare, insomma già fanno vedere la mamma, sì, in maniera estrema, no? Comunque questo bambino a un certo punto si incuriosisce e guarda e questa manifestazione a un certo punto fa un giro tipo Wonder Woman e si trasforma in donna. Ok, questo un bambino maschietto si trasforma in donna. A un certo punto dice la mamma: mamma, guarda, è troppo tardi che tu mi dica di non guardare, è favoloso. E poi dopo c'è la scritta: diventa gay anche tu. A me non mi interessa né che mi dicano diventa gay anche tu, perché ognuno c'ha il suo indirizzo e la sua via. Ma la cosa più drammatica è mettere un bambino a fare una pubblicità del genere. Abbia pazienza, è una cosa che non va bene. I bambini fanno le pubblicità di un sacco di prodotti, in questo caso fanno la pubblicità a una manifestazione. Cosa c'è? Un conto è fare la pubblicità dell'IDT, ma qui lì fa una lì è la pubblicità di una manifestazione, ha capito? Ma perché un bambino in mezzo a due omosessuali non va bene, secondo lei? Tendenzialmente no, perché se quel bambino, scusi, nasce maschietto, perché gli si deve inculcare qualcosa a livello pubblicitario che può essere anche femminuccia? Uno se pensa che l'atto omosessuale, se uno pensa che l'atto omosessuale è un atto contro natura, perché lei pensa questo, no? Che è contro natura, immagino. Ma certo, ma è ovvio, ma per me è così. Contro natura, vabbè, allora. Certo. Si fa da quando esiste l'uomo. Due uomini si accoppiano da quando esiste l'uomo. E adesso è contro natura. Per me è naturale che si accoppi un uomo con una donna. L'inchiappettamento tra uomini, detto in maniera così, è una roba normale. L'inchiappettamento tra uomini è sempre avvenuto. È una roba normale. Questo lo dice lei. Ma dottor Crucia, ma io posso esprimere il mio parere? Ma ho capito, ma basta con questa cosa che gli atti omosessuali sono contro natura. Per lei sono contro natura. Fatta di mentecati. Perché la nazionale? Perché tanto perde al primo turno con la persa ai mondiali. Vabbè, ma lei che ne sa? La nazionale italiana fatta di mentecati. Ma glielo dico io, che finché non arriva Ventura è un grande. grande allenatore. Ma di sicuro però, Conti, mi scusi, padre, io tifo il Cagliari. E non ma lei deve occupare, lei si occupa di Cruciani, di Zanzara, di calcio. Si deve occupare delle prossimo, anime. Anche lo scudetto. Sì. L'anno prossimo il Cagliari vince. Anche lo di calcio, tutto finito. Comunque, ma quale scudetto? Dopo c'è. Ma scommettiamo? No. E il Cagliari vince lo scudetto l'anno prossimo. Quello che io mi sono chiesto in questi giorni, sa cos'è? Cos'è? Che si è chiesto? È possibile che quella mia predica abbia fatto tanto rumore? Tanto rumore, sì, è vero. Quando alla fine dei conti io ho fatto una predica per i miei fedeli, quelli che sono fuori dalla chiesa, che non gliene frega niente. Ma esiste il coso. Ma cosa esiste, gliene importa? Esiste il web, il famoso web. Che perché io. Esiste il web. Vuol dire che magari gli avrebbero detto, ma quello, Don Massimiliano è un grande coglione, con tutte le ragioni di questo molti, mondo. Alcuni è un grande detto. Coglione, è un pezzo di merda, uno stronzo, un cretino, un idiota, un povero prete di campagna ignorante, lasciamolo dove sta, che cazzo ce ne frega. Invece no, invece no. Io leggo che lei è anche esorcista. Ero esorcista. Tiri com'è? Fuori il diavolo che è in me. Tiri fuori via. Mandi via il diavolo. Mandi via il diavolo. No, dottor Cruciani, no. Ma sa perché? Perché quando io sono di malumore l'ascolto. Guardi, lei ma non va bene, ma è un mondo, ma è tutto irrimediabile. Ma è irrimediabile. Lei è il numero uno. Ma lei è un prete. Mi può dire quello che vuole. Non lei può fare l'elogio di questo personaggio di Cruciani, non può! No, qui ci sono transessuali, puttane, prostitute, dottor puttaniere! Cruciani, lei deve dire che qui c'è lo schifo, non è viva! Dottor Cruciani è il numero uno. E resta per me il numero uno. Ciao, Don Massimiliano. Il numero uno. Ciao, Don Massimiliano. Ciao. Dio vi benedica, un abbraccio. Ma anche no! Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presento La Zanzara. Allora, ti faccio sentire, David, due piccole perle non troppo perle, di Mauro da Mantova. Di Mauro da Mantova che si avvicina, secondo me, passo dopo passo al tribunale. Senti, una è molto breve. Senti bene, Cruciani. Io, nella mia modesta vita, posso rimanere senza acqua, senza cibo, senza luce, senza acqua, senza gas, ma non posso restare senza la biografia del grande Hitler. Ehi, Hitler! Ma ti rendi conto o no? Beh, io mi rendo purtroppo conto. Ti rendi conto io o no? Purtroppo mi rendo cioè, conto. Cioè, manifesta palesemente il suo nazismo. Dopodiché sugli omosessuali, senti. Hai ben da dire, Cruciani. Per me, l'essere omosessuale, sia uomo che donna, lo metterei reato, è un reato, tu non puoi essere gay e non puoi essere lesbica, tu donna vai con un uomo, tu uomo fai vai con una donna, oppure ti esilio dalla comunità, perché un popolo con lesbiche e gay muore, non cresce demograficamente, vaffanculo Cruciani. Beh, che dici? Beh, dico che purtroppo bisognerebbe invocare l'incapacità di intendere e di volere, ed è quello che io farò, guarda. L'incapacità di intendere e di volere. Beh, totale capacità. Invece no, invece incapacità di intendere e di volere è sbagliata come strada, cioè, perché in realtà poi si salverebbe. Santo Torino, vai. Ma si dovrebbe curare finalmente. Santo, però. Vai. Salvato dal carcere, ma curato. Emilio Firenze, vai. Emilio? Pronto? Dai, dimmi Emilio, vai. Eccomi. Io volevo dire, come ha detto un ascoltatore due o tre volte, cioè due o tre ascoltatori fa, che non c'è nessuno che aspetti un deficiente di marito, di compagno, che ha ammazzato la compagna. Che l'aspetti è che come minimo gli stronchi sulle due ginocchia, se non l'ammazzi. Ammazzarlo non vale la pena. Sì, ma ho capito, ma ragazzi, ma non è che siamo nel Far West, qualcuno aspetta le persone fuori dal nulla. Ma scusa, Cruciani, ma ammazzare una persona, una donna di 20, 30, 40 anni, ma lei cioè, non ci pensa nessuno a Abele, no? Voleva salvare tutti Caino. Scusami, questo Emilio, ma allora tu l'omicida di questo ragazzo che ha ammazzato l'ex fidanzato che ha ammazzato Sara, no? Che ha ammazzato Sara, che cosa faresti tu? L'aspetteresti fuori dal carcere a ammazzarlo? Se la fosse a mia figliola, sì. Vabbè, ma quello garantito. Che c'è, sì, e tu pensi che questa qua, debba rimanere una cosa impunita? Allora, cioè, se uno spara, se uno spara a uno che ha ammazzato una ragazza, poi perché uno che ha ammazzato una ragazza bisogna sparargli a uno che magari ha ammazzato un che ne so, un politico, una, o un banchiere? No, non ho capito che differenza c'è. Allora, scusa, se è promicidio, è. No, scusa, certo. Se uno ammazza la Boschi, che può essere la mia figliola, è uguale, è un dirigente dello Stato. Io parlo di la persona, a me se mi ammazzano uno di famiglia, una persona, una figliola, una nipote, figliola non ce l'ho, c'ho maschi, c'ho le mie nipoti, Cioè, secondo te i parenti hanno il diritto di farsi giustizia da soli? No, è diritto. Quello è un demente, oltretutto, quello è un demente, perché vengono arrestati tutti, no? Pronto? Susanna? Pronto? Come stai, amore mio? Amore, che è Susanna? Tesoro. Ma mi stai chiamando adesso? Certo, in diretta, qui. Ma che è la posseduta? Certo, ma no, perché sai, volevo capire dopo qualche giorno che abbiamo spaccato con questa storia qua tua. Abbiamo spaccato il mondo, volevo sapere come andava. Non sai sulla Salaria cosa succede? Che succede sulla Salaria? Raccontaci. C'è un traffico. Cioè? Ti fermano? Mi cercano tutti, passano tutti con le macchine. Susanna, sei una grande! Sei la numero uno! Ma tu lo sai che mi arrivano adesso, va, che già la storia è mi arrivano continuamente delle foto tue. Cioè la gente passa sulla Salaria, mi fa delle foto e mi manda: ecco Susanna. Addirittura ho dei filmati con la gente che si avvicina, che fa delle riprese mentre tu ti avvicini con i clienti. Cioè, ma dove stai adesso, a casa? Casa, ecco, stia con i figli, poi. Va, stia con i figli. Ma quest'ora allora non ci sono, Magari le troviamo un lavoro normale, va, così anche i suoi figli sono contenti. Ma se quella vuole fare la mignotta, fagli lasciare fare la mignotta. Non parlare sempre dei miei figli, perché io gli do un grande dolore, lo so, però io ho scelto di fare questa vita, mi piace, purtroppo lo so, farò schifo come madre, però... Ma no, ma perché devi dire che fai schifo? No, non stare dietro a Parenzo che fa sempre il moralista. Io non ho detto che fa schifo il moralista, ma... Fai sempre il moralista. Ma saranno cazzi suoi, no? Ho capito, però... Riconosco che do un grande dolore ai miei figli facendo questa vita, ma io mi diverto tantissimo. E allora, vabbè, sei d'accordo con la sua coscienza, basta, se ne frega. Non sono a posto con la coscienza, però io cosa devo fare? Cioè, se lei sta bene così, è importante che lei stia bene come sta, guardi. Senti, quanto hai scopato oggi? Dai, guarda, che tu mi metti nei casini. Ma che casini, dai, che sei diventato un mito praticamente. Ma guarda che lì è mondo di rumene e papponi, io non sto mica lì a fare la star in mezzo a... Ho capito, ma quanto hai scopato oggi, amica mia? Amore, tanto, perché sono venuti tutti a cercarmi, amore, ti ho fatto guadagnare, ti faccio guadagnare più soldi. Adesso mi metteranno in galera a me, no te! Mi mettono in galera a me per favoreggiamento alla prostituzione! Favoreggiamento alla prostituzione! Cioè, io sono contento che tu guadagni tanti soldi, guarda. No, che... no, non guadagno tanti soldi. No, che ne guadagni di più rispetto a prima. No, oggi mi hanno cercato tanta gente, sì. Ma mica anche solo per venire con me, anche per dirmi: guarda, ho sentito l'intervista, sei una grande, perché hai detto la verità, perché non si è mai sentita una donna che dice quello che pensa così. Senti, guarda, c'è un fan che ti vuole salutare, Antonio, saluta Susanna. Antonio, ciao Susanna, come stai? Bene, te? Bene. Perché hai detto che sei un grande fan? Ti spesi bene, l'altro maiale, tutta salute. Ma non ho capito, Antonio, perché tu ci sei andato con Susanna? Merita, perché davvero? Lo fa con piacere. Pensa alla moglie che lo sta sentendo ora. Merita. Aspetta, Susanna, Antonio, non ho capito, quanto hai speso, scusami? Ho speso. Vabbè, adesso non fare che ti hai chiamato, adesso. Ho speso, ma mi sono consolato. Cioè, 100 euro, quanto hai speso? 100, 150, quanto hai speso? Beh, Ma scusa, non ho capito, ma sei sposato, sei fidanzato, sei single? No, sono sposato. Sei sposato? Pensa alla moglie adesso che lo sta sentendo alla radio, quando si diverte, quando torna a casa. Ma saranno affari suoi, non ho capito, che male c'è, non ho capito, questo qua. Invece l'apparenza, non rompe i coglioni, spendete due soldi. Verrai quando torni a casa, trovi la moglie col bastone nodoso, oppure metti la chiave della porta. Ma non lo sa la moglie, non l'ascolta la zanzara. La sta ascoltando la radio, metti la chiave della toppa della porta e non capisci perché non si gira più. Dici, cazzo, com'è, ha cambiato la serratura. Scusami Antonio, in realtà io sono convinto che Susanna è una che fa tenere, cioè fa cementa i matrimoni. Questa è la realtà. Cementa i matrimoni. Vedremo guarda, stasera. No, io rimando a casa invece più sereni. E cioè appunto per questo dico cementa, nel senso che solidifica i matrimoni, mantiene i matrimoni. No, Antonio, tu che dici? Luciano, guarda, io sono un professionista. Non ero mai stato. Ma lei, siccome per motivi di lavoro vado spesso clienti sulla salaria, mi ha colpito, ho detto ce devo provare. Sono anche spesi benissimo. Ah, ho capito, ma questo da quando hai sentito la zanzara oppure ci andavi pure prima? No, potevi portare fuori a cena tua moglie, no, con quei soldi. Che pubblicizzate la cosa, perché merita. Beh, pubblicizziamo, adesso stiamo a potevi portare a cena tua moglie con quei soldi, anziché... Ma che c'entra la moglie? Fare porcheria in giro. Qualcosa, non dai, capisci. Ti prego. Digli qualcosa. Spendi i due soldi. E io li spendo come, infatti? Li spendo come io? Ciao. Allora, Susanna, qui è pieno di fantuoi da quando abbiamo... Io sono contentissima, guarda, perché io sentirmi dire che ci metto la passione, la voglia... che li faccio stare bene, che... capito Parenzo? Guarda, carità, ma troppo bene. Stiamo parlando di grande professionismo qui, non è che stiamo parlando di... ragazzi, io... ti giuro, ma no, grande professionismo, guarda. Vabbè, io sì, di quello stiamo parlando. Sì, però guarda, io mi diverto tantissimo, sono contenta che uomini belli. Vabbè, belli, adesso ci sarà pure qualche uomo brutto, non è che sono tutti belli quelli che vengono con te, Susanna, no, dai, su. No, guarda. Vabbè, ci sarà qualcuno che ti ha... Ma certo, non ci vado, chi mi fa schifo. Ah, ma come fai a saperlo prima? Ma li guardo li guardo, le facce, l'aspetto, le panze, no, non ce la... Ma scusa, d'inverno, per esempio... A me piace fare sesso, quindi non ci vado capito, con bruttone che mi fa schifo, cioè che ci vado a fare? Ma non ho capito, tu fai... Io lì solo per soldi, ma se tu vai con dieci uomini al giorno, metti, che succede, no? Succede che sei andata con 10 anche, no? O sbaglio? Sì, succede. È possibile che tu, tutte e 10, con tutti e 10 questi quattro... Io godo sempre, sì, perché mi piace, perché vado con persone, con uomini che mi portano a questo livello, no? Perché me li scelgo. Vabbè, adesso non è che è inverosimile che tu godi sempre, con tutte le persone con cui vai godi. Io godo, sì. E che sei? Ma sarà ninfomane, che sei? Sei una ninfomane scatenato. Sarò anche ninfomane. Ma non c'è niente di male, per carità, mica un delitto. Mi piace, e io ho questo dono qua, e quindi... Senti, ma voglio capire una cosa, a Roma chi voti? A Roma chi voti? No, è curioso. Senti, ti posso dire una cosa? Dimmi, a me non me ne frega un cazzo di votare. Lo so. È una vita che non lo faccio. Ma andrai anche stavolta perché... a votare o no? No. No, perché io non lo Stato non deve niente a me, non devo niente allo Stato. Non vai al ballottaggio. Io vivo nell'ombra. Raggi né Giachetti, niente. Non ho mai niente. Lavorato in regola. E le Olimpiadi le vuoi o no? Perché qui le Olimpiadi si fa un sacco di soldi. Sarebbe una grande cosa qui, Sarebbe una cosa grandiosa l'Olimpiadi. Abbiamo trovato una persona a favore delle Olimpiadi, Parenzo, come te. Una persona a favore delle Olimpiadi. Susanna questo. Come Parenzo vuole per le Olimpiadi. Diversi. Pensa sulla salaria, pieno di gente. Pieno di gente. Quanto sono aumentati i clienti dall'intervista che abbiamo fatto? Guarda, ti dico, vengono tantissimi con le macchine, ma non solo clienti, anche solo a farmi complimenti di quello che hanno sentito. Poi una marea di gente che ha visto su internet l'intervista. Vabbè, t'abbraccio, vai, stai bene, va? Sei stai carino, bene. Ciao, arrivederci, ciao, signora, Susanna, grazie, ti proteggo, se ti succede qualcosa ti proteggiamo sempre. Protection. Una pistolettata un giorno o l'altro. Susanna protetta, non pronunziamo i protettori, per carità, qui ci arrestano. Protetta dalla zanzara. Ciao. Sono contenta che t'ho colpito. Bacio, grazie. Ciao. Un bacione. Ciao. Arrivederci, signore. Parezzi, me ne devo andare a vedere la partita. Tocco Bravo. Finale, voglio fare risentire Fede, Emilio Fede, una telefonata che ci è arrivata da un ascoltatore che gli voleva rompere i coglioni per sta storia delle discoteche. Dunque, allora, ragazzi, stacchiamo tutto. No, aspetta, riascoltiamoci Fede. Io me ne vado a vedere la partita, te ne frega un cazzo. Emilio Fede chiamato da un ascoltatore mentre sta andando in discoteca a Piacenza qualche giorno fa, era il 3 di giugno. A domani, ragazzi. Ditemi Qual è il problema? Uè, direttore, buonasera. No, non è un problema. Ho letto che stasera va in discoteca. Al Darwin. Va in discoteca, è giusto. Ma questa è un'evoluzione della specie. Siamo alle Marchette. Scusa. Mi dica, direttore. Mi dica, detto fra di noi. Sì, mi dica, direttore. Tu quante volte lo prendi nel culo? E poi soprattutto una cosa voglio sapere. Mi dica. Perché non hai aiutato, hai evitato a tua madre di fare i pompini agli extracomunitari? Spiego. Ma io volevo sapere se stasera c'è la lap dance in discoteca. Sì, c'è quella puttana di tua madre in perizoma. Anche in perizoma? Sì, senta, tua madre. Ma direttore, ma siamo proprio alla canna del gas. No, io ti dico che tu vai a fanculo. Non solo, io ti denuncio per violazione della privacy, sì? Insulti e minacce gravi, sì? Hai capito? Cretino, io vado a ricevere il premio Città di Piacenza di giornalismo assieme all'ex direttore del quotidiano di Piacenza in un ristorante. Io non metto piedi in discoteca. E adesso fatti una sega, vecchio impotente di merda. Ma guardi che io non sono assolutamente... Ma perché se la... merda. Ma perché se la prende vecchio con me, direttore? Di merda. Perché solo gli impotenti fanno questi giochetti. E tu fai parte di quella banda di delinquenti. Sì. E c'è l'associazione a delinquere. Che mi hanno martellato. Sì. Sì, sì. Ma c'è una denuncia ben precisa nella quale inserisco anche te. Io ho ricevuto 6.000 telefonate, vecchio cornuto che non sei altro, sì. Sai, la moglie è cornuto, sei. Sì. Hai finito? Ma io le chiedo soltanto se va in discoteca, giuro, direttore, se giuro, va in discoteca. Io ti giuro sulla mia famiglia che esco da qui dopo questa telefonata e ti denuncio immediatamente. L'associazione a delinquere è finalizzata alla violazione della privacy, minacce e insulti. Ma che minacce? Le chiedo se ci vediamo in discoteca. In discoteca, direttore. Sto dicendo, vecchio porco. Ma io non sono vecchio porco. Ti giuro che esco da qui e ti denuncio. Perché se io stasera non vado in discoteca e quindi vado a ricevere invece un premio intitolato ad una città. Ma questo è interessante, vero? Che tu stai offendendo. Ma io non offendo nessuno, direttore. Ma ci mancherebbe. Non mi permetterei mai, mai. Tu intanto... Ah, e lo dirò stasera se vado lì. Tu hai offeso, metterò scritto il tuo numero, hai offeso la città di Piacenza dicendo che è città di buffoni. Va bene? Adesso sono cazzi tua. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, quando ritorno a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.